Quanto a lui, era il primo anno che si trovava a Balbec. Non mi conosceva ancora, ma avendo sentito i suoi colleghi più anziani, quando mi rivolgevano la parola, far seguire all'appellativo signore il mio nome, li imitò sin dalla prima volta. Soddisfatto vuoi di mostrarsi aggiornato circa una personalità che riteneva famosa, vuoi di conformarsi a un'usanza che 5 minuti prima ignorava, ma cui gli sembrò subito indispensabile non contravvenire. Capivo perfettamente come quell'albergo imponente e lussuoso potesse esercitare un tale fascino su certe persone. Era organizzato come un teatro e una quantità di comparse l'animava fin nelle soffitte. Sebbene il cliente non fosse che una specie di spettatore, veniva continuamente coinvolto nello spettacolo e non come in quei teatri dove gli attori recitano una scena in platea, ma come se la vita dello spettatore si svolgesse in mezzo alle sontuosità della scena. Il giocatore di tennis poteva anche rientrare in giacca di flanella bianca. Il portiere, per consegnargli la sua posta, s'era messo in red and go, azzurra gallonata d'argento. Se non voleva salire a piedi, il nostro giocatore continuava a mescolarsi agli attori. Accanto a lui, a manovrare l'ascensore, c'era infatti il lift, non meno riccamente mascherato. I corridoi d'ogni piano celavano una fuga di cameriste e di fantesche, belle contro il mare come il fregio delle panatenee, e alle cui stanzette gli amatori dell'avvenenza ancillare giungevano per sapienti e tortuosi itinerari. A pian terreno dominava l'elemento maschile, facendo di quell'albergo, a causa dell'estrema e indolente giovinezza dei servitori, una sorta di tragedia ebraico-cristiana che, preso corpo, venisse perpetuamente rappresentata. Così, vedendoli, non potevo impedirmi di ripetere fra me e me, non certo i versi di Racine che mi erano venuti in mente dalla principessa di Gamand, mentre il signor di Vaugobert osservava i giovani segretari d'ambasciata intenti a salutare il signor di Charlus, ma altri versi, sempre di Racine, tratti non più da Esther, stavolta, ma da Athalie. Fin dalla hall, infatti, equivalente di ciò che nel XVII secolo si chiamava porticato, s'affollava soprattutto all'ora della merenda un peuple florissant di giovani fattorini, simili ai giovani israeliti dei cori di Racine. Ma non uno di loro, penso, avrebbe potuto fornire la sia pur vaga risposta che Joas trova per Athalie quando costei chiede al principesco fanciullo: «Qual è dunque il vostro lavoro?» Giacché di occupazioni non ne avevano alcuna. Tutt'al più, se ci si fosse rivolti ad uno qualsiasi di loro con le parole della vecchia regina: «Ma tutto quel popolo chiuso in quel luogo, di che cosa si occupa?» Quegli avrebbe potuto rispondere: «Osservo l'ordine pomposo di queste cerimonie e vi contribuisco». Ogni tanto, una delle giovani comparse s'avvicinava a qualche personaggio più importante. Poi la giovane beltà rientrava nel coro e, sempre che non fosse il momento d'una pausa contemplativa, tutti quanti intrecciavano le loro evoluzioni inutili, rispettose, decorative e quotidiane. Infatti, tranne che nel loro giorno libero, loin du monde levé, essi non calpestavano suolo che non fosse sacro, vivendo la stessa esistenza ecclesiastica dei leviti in Athalie. E dinanzi a quella troupe jeune et fidèle, evoluente ai piedi di gradini coperti di sontuosi tappeti, potevo ben chiedermi se stessi penetrando nel Grand Hotel di Balbec o nel Tempio di Salomone. Risalivo direttamente in camera mia. I miei pensieri non si staccavano quasi mai dagli ultimi giorni della malattia della nonna, dalle sue sofferenze che rivivevo, aumentandole di quell'elemento più difficile ancora da sopportare di quanto non sia la stessa sofferenza degli altri, che aggiunge ad esse la nostra crudele pietà. Nel momento in cui crediamo di limitarci a ricreare i dolori di un essere amato, la nostra pietà li esagera. Ma proprio questa, forse, è nel vero. Più della coscienza, che di quei dolori hanno coloro che li patiscono e ai quali rimane celata la tristezza della loro vita, quella tristezza che la pietà vede, invece, e di cui si dispera. Pure le sofferenze della nonna, la mia pietà, le avrebbe, in un nuovo slancio, oltrepassate, se avessi saputo allora ciò che ignorai a lungo, e cioè che la nonna, il giorno prima di morire, in un intervallo di lucidità e dopo essersi assicurata che io non fossi presente, aveva afferrato la mano della mamma e, premendovi le labbra febbricitanti, le aveva detto: «Addio, figlia mia, addio per sempre». Ed è, forse, anche a quel ricordo che mia madre non ha mai smesso di guardare così fissamente. Poi tornavano a me i ricordi più dolci. Lei era la mia nonna e io ero suo nipote. Le espressioni del suo viso sembravano scritte in una lingua riservata a me solo. Nella mia vita lei era tutto. Gli altri esistevano solo in rapporto a lei, ai giudizi che lei ne avrebbe dati. Ma no, i nostri rapporti sono stati troppo fugaci per non essere anche accidentali. Non mi conosce più, non la rivedrò mai. Non eravamo stati creati l'uno per l'altra, era un'estranea. Stavo guardando di questa estranea la fotografia fatta da Saint-Loup. La mamma, avendo incontrato Albertine, insisteva perché la vedessi, a motivo delle cose gentili che la mia amica le aveva detto sulla nonna e su di me. Le avevo dunque fissato un appuntamento. Pregai il direttore di farla aspettare giù nel salotto. Mi raccontò che la conosceva da molto tempo, lei e le sue amiche, da ben prima che avessero raggiunto la probità, ma che era seccato con loro per ciò che erano andate a dire in giro dell'albergo. Devono essere ben poco deformate per parlare in quel modo, a meno che non le abbiano calunniate. Non faticai a tradurre probità con pubertà. Aspettando il momento di scendere da Albertine, tenevo gli occhi fissi, come su un disegno che a furia di guardarlo finiamo col non vedere più, sulla fotografia scattata da Saint-Loup, quando di colpo pensai un'altra volta: «È la mia nonna? Io sono suo nipote», così come una persona colpita da amnesia ritrova il proprio nome, come un malato cambia personalità. Françoise, entrata ad annunciarmi l'arrivo di Albertine, vide la fotografia e «Povera signora!» esclamò. «È proprio lei! Ha persino il suo neo sulla guancia! Il giorno che il marchese le ha fatto la fotografia era stata così male, si era sentita male due volte!» «Soprattutto Françoise mi aveva detto che non lo venga a sapere mio nipote. E lo teneva ben nascosto lei, in compagnia era sempre allegra. Quando era sola, per esempio, certe volte mi sembrava che fosse un po' monotona di testa, ma le passava subito. E poi mi aveva detto: se mi dovesse succedere qualcosa, bisogna che lui abbia un mio ritratto, non ne ho nemmeno uno. Allora mi ha mandata a chiedere al signor Marchese, raccomandandogli di non raccontare al signore che glielo aveva chiesto lei, se poteva farle una fotografia. Ma quando sono tornata a dirle che era d'accordo, non voleva più, perché le sembrava di aver troppo brutta cera. Sarebbe ancora peggio, mi disse, che non averne nessuna di fotografia. Ma siccome non era mica stupida, ha finito con l'accomodarsi così bene, mettendosi un cappello grande che le scendeva davanti, che non ci si accorgeva di niente se non era proprio in piena luce. Era molto contenta della sua fotografia, perché in quei giorni era convinta, diceva, che non sarebbe più tornata da Balbec. Io avevo un bel dirle: signora, non bisogna parlare così, non mi piace sentire la signora parlare così. Era la sua idea fissa. Diamine, erano parecchi giorni che non riusciva più a mangiare. Per questo insisteva che il signore andasse a mangiare da qualche altra parte col signor Marchese, e allora, invece di andare a tavola, faceva finta di leggere. E appena la carrozza del Marchese era partita, saliva a mettersi a letto. Certi giorni voleva avvertire la signora che venisse per vederla un'ultima volta, ma poi aveva paura di impressionarla, dato che non le aveva mai detto niente. Sapete, Françoise, è meglio che rimanga con suo marito. Guardandomi, Françoise mi chiese improvvisamente se fossi indisposto. Le risposi di no. E lei? Ecco, mi tenete qui a parlare con voi. La vostra visita sarà già arrivata. Devo scendere da basso. Non è una persona adatta, lei, per questo posto. E poi, con l'argento vivo che ha addosso, è capace d'essere già andata via. Non le piace aspettare. È diventata importante adesso, la signorina Albertine. Vi sbagliate, Françoise. La signorina va bene. Va anche troppo bene per questo posto. Ma andate ad avvertirla che non posso vederla oggi.